se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Oh, giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnaggi, dovete seguire e pugnare. Poche foot. Raggi, l'avevamo detto qualche tempo fa, raggi non sono raggi di sole. È diventata una vicenda imbarazzante per l'Italia, oltre che per il Movimento 5 Stelle. È davvero una vicenda sconvolgente. La cosa drammatica è l'incapacità amministrativa, il dilettantismo. È il fatto che la capitale d'Italia è allo sbando, è senza governo da mesi. Un movimento che si presenta come l'emblema della trasparenza nel dibattito pubblico è diventata una specie di setta satanica. C'è uno che si sveglia la mattina e dice: nessuno parli, e tutti zitti. La setta satanica, secondo Vincenzo De Luca, è il Movimento 5 Stelle, ovviamente. Beh, burattini. Eccolo lì. Calmati, calmati Vincenzo, calmati. So che vuoi condurre 24 mattino e ci arriveremo tra poco. Dilettantismo. Però, modera il linguaggio, modera le parole. Lo so che su questo ci sguazzi, chissà quanto ci sguazzerai, su sta storia della Raggi. Tutto oscurato. Però bisogna avere appunto la moderazione. Sconvolgente. Vabbè, sconvolgente. È un po' sconvolgente, sì, lo è, però dai, Vincenzi. Allora, questi sono i rimasugli della serata di ieri. Che serata, signori, al Teatro Manzoni. Ringrazio qui pubblicamente tutti quelli che sono arrivati al Teatro Manzoni di Milano per vedere Platone, tutto esaurito ieri. Torniamo il 26 marzo, c'era anche un Giuseppe Cruciani in Graspolvero. E va bene, va bene. Ma è lunedì. Lo so, grazie, grazie. Spero vi siate divertiti. Spero abbiate serato una serata piacevole. Sicuramente Mauro Beazza. Alcune foto di Mauro Beazza sul palcoscenico sono per lui un pochino, come dire, compromettenti. Dopo ne metterò una su Twitter, eh? Ne mettiamo una su Twitter e su Facebook, eh? Va bene, ma è lunedì e bisogna ripartire. Quadrado, zona tiro, eccolo. Quadrado, gran botta, rete, gol meraviglioso. Quadrado manda in estasi lo Juventus Stadium. Vabbè. Saluto Marione Adinolfi. Quasi monotono, diciamo. Insomma. Quasi, che, monotono, che noia, che noia. Noi vinciamo, voi perdete e vabbè. Che noia, è la stessa cosa. Come disse un mio caro amico, e la ripeto anch'io ieri, valeva per ieri. Prima, lui lo disse prima della finale di Manchester Juve Milan. La ricordi quella di Manchester? Ero lì, ero allo strappo. Ah, ecco, come, quando gli chiesi, lui che non ama né Juve né Milan, a chi tifi oggi? Tifo Al-Qaeda. Mi rispose. Ecco, ieri un po' era il tifo anche mio. Milan Juve, Inter Juve. Inter Juve, o meglio Juve Inter. Chi tifi? Al-Qaeda. Vabbè. Che noia, ragazzi, il campionato è chiuso da mo. Ormai quest'anno siamo, non abbiamo scavallato neanche febbraio, proprio. Però mercoledì è andato a -20, che questo è sempre un bel segnale. No, noi mercoledì giochiamo anche noi, eh. Vabbè, ma voi ricordo, sapete che fate, no? Ti ricordo, ti ricordo che noi recuperiamo anche noi per via di una Supercoppa che, se non sbaglio, è il primo titolo della stagione finito a casa Milan. È vero. Dobbiamo riconoscerlo, sta coppetta di consolazione. A quanti titoli siete per ora quest'anno voi? Zero titoli. Noi a uno. È andata anche questa stagione. Allora, insieme a te voglio salutare una Chiaretta Geloni, che anche lei juventina, mannaggia ragazzi. Ma come faccio a invitare due juventini così? Io sempre juventino, è una roba incredibile, è un qualcosa dentro di me, è un virus che mi gira, non so come. Guardo Lorenzo Nespoli, sempre dice oggi che abbiamo due juventini, è sempre così, è una roba incredibile. È un'egemonia, effettivamente. È una roba incredibile. Ebbene tu riconosca, ma Vabbè, siete così, arroganti al potere. Dai, apriamo il Parlamento, perché qui... Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente! Qua la verità è che le cose più importanti succedono all'estero. La frase più importante, come al solito, è quella di Trump, che... Però noi vogliamo partire da cose italiane, dai, perché si sa, oggi... Il vostro sindaco Virginia Raggi, caro Mario Dinolfi... Quella. Il nostro sindaco, io ho fatto il possibile per contrastarlo. Vabbè, è il tuo sindaco, fai un po' il patriota americano, cioè, come dire, è il mio presidente, è il mio sindaco. Non è il mio sindaco, non è il mio. Così, proprio, come in America, Chiara Geloni, quando vince uno, tutti uniti, tutti uniti. Ma noi siamo famosi per questo. Certo, non è il mio sindaco. Oggi il tuo sindaco, Virginia Raggi, parla al Corriere della Sera e dice... che la polizza non è reato, che sì, c'è stata una partenza sbagliata, ma adesso recuperiamo. Un po' come la Juve l'anno scorso, è successo. Poi avete vinto il campionato anche l'anno scorso, per le prime, non so, eravate dietro un po'. Sì, era il quinto consecutivo, però loro vuoi dire quale campionato hanno mai vinto? Perché per questo noi, diciamo, abbiamo una solida tradizione, come si dice. Qui la solida tradizione di governo amministrativo delle città non mi pare ci sia, insomma, quindi... Mi spiace, il problema è politico, anche giudiziario, perché oggettivamente i codici etici che cambiano a seconda delle esigenze fanno un po' ridere, è amministrativo, perché la città è disastrata. Cioè, il bilancio non si sa da quale parte si possa vedere, dal punto di vista positivo per loro, insomma, se non fare le riunioni e impedire per esempio la Lombardi Fiuvata, perché poi siamo arrivati a questo, insomma, no? Hai visto che se parli vai fuori al movimento, non è proprio un bellissimo clima, insomma. Però insomma, che dovrebbe fare? Perché adesso pare che si sia ricompattata, cioè almeno Grillo ha detto, chi la critica è fuori. E invece... quello è il metodo di ricompatto, ma insomma non è un gran metodo, ecco, dico, perché quella lì continua ad essere incavolata e la base del 5 Stelle anche. Non vedo una grande base di legittimazione per la Raggi. Vabbè, io infatti ho pensato dentro di me, ai, qui ci siamo, mi sa, con questa storia della polizza al di là della mia insaputa, eccetera. Qui ci siamo, Chiara Geloni. Invece, vedi, ha parlato Grillo, ha detto sto dalla parte della Raggi, chi non ci sta è fuori. Okay. E questo, diciamo, intanto, per ora. E loro sono... Io a me stupisce di questo titolo dell'intervista della Raggi, stupisce un po' la parola partenza, perché lei parla ancora come se fosse stata eletta una settimana fa e avesse avuto così qualche rallentamento, qualche difficoltà iniziale. E adesso io sinceramente non, siccome non so niente della questione polizza o dei suoi rapporti con la Lombardi, non voglio neanche entrare in questo. Purtroppo da cittadina, no? Come dicevi prima, è giusto, ho sbagliato, è il mio sindaco, magari non è il sindaco che avrei scelto io per la mia città, ma lo è, e purtroppo l'immagine che trasmette è quella di un'amministrazione che non ha assolutamente un'idea, una priorità, un intervento in testa sulla città. Si sa che tu avresti scelto Adinolfi come sindaco. Ha votato sicuramente, anzi possiamo svelarlo a distanza di 7-8 mesi a questo punto. Anche al ballottaggio ho votato Adinolfi. Questo era un brutto colpo basso. Questo è un brutto colpo ma, senta, no, ma perché hai voluto dire questa cattiveria? Questa cattiveria gratuita. Allora, al ballottaggio non è arrivato di poco, ma... Ma io per stima l'ho votato lo stesso. Vedi, vedi che cattive. Vedi, vedi le donne che cattive quando vogliono essere... quando vogliono ferirti. Ma... Marione, Pelle spessa da queste parti, diciamo. Cosa? Pelle spessa da queste parti. Pelle spessa. Certo, certo. Allora, però, sentiamola alla Raggi, che è andata, che tra l'altro, ecco, c'è da registrare anche questa cosa, è andata da Mentana subito. Oggi al Corriere, domani chi lo sa. Insomma, quello bene, no? Bene, spiega, parla, si espone. Si espone alle domande, si espone alle critiche, si espone, vabbè, da Mentana. Immagino che quando domani, nelle prossime ore, quando le opposizioni le chiederanno formalmente se non è il caso di dimettersi, lei... Ma assolutamente, assolutamente no. È una vicenda che mi ha visto del tutto estranea e che peraltro è stata ricostruita anche in maniera molto fantasiosa. Mm. Sì, adesso c'è da dire, Marione, che ci si sposta tutto sulla questione polizza e che, vabbè, non è reato, l'ha detto la procura, però ci sono comunque delle ipotesi di reato altre che rimangono, l'abuso d'ufficio. È l'incapacità il problema, la tu ti fai, la giunta non riesce a farla, quando la fai ti chiami il capo di gabinetto che è magistrato, quella ti manda a quel paese dopo una settimana. Ti scegli quel braccio destro, uno te l'arrestano per corruzione, esalta l'assessore al bilancio. È la famosa partenza sbagliata, la famosa metti l'assessore all'ambiente e te lo trovi indagato per reati ambientali, cioè voglio dire, insomma, il capo di segreteria gli triplichi lo stipendio, poi si vede che ti ha fatto la polizia a favore, insomma, oggettivamente ce n'è a profusione per la logica del 5 Stelle, peraltro. Sì. Non dico per la allora politica, allora per la seconda volta nel giro di poche settimane, non facciamo in Mentana che ci parliamo seduti dal musetto Caruccio. Insomma, è una persona che in qualsiasi paese del mondo, come ci piace dire, si sarebbe dimessa l'altro ieri, sì. non oggi. Allora va bene, per il secondo giorno consecutivo, quando parliamo di Roma, ti ricordi l'altra volta, mi spingi a un sommovimento che mi parte dal dentro e che vorrei esporre a voi e che fa più o meno così. Marino, Marino, Marino, Marino, Marino, forza, cantate con me, ma dai Chiara, Marino, Marino, ma dai, una l'abbiamo conquistata, forza di Rolfi, anche tu, Marino, Marino, Marino, ma io non mi devi conquistare, cosa vi aveva dire. Fatto Marino, di due conti in trattoria pagati forse da non si sa chi, ma poi tutto chiarito, non c'era reato, cosa vi aveva fatto? Gli avevano arrestato gli assessori per mafia capitale, ancora come l'altra volta. Chiara, cosa ti aveva fatto Ignazio Marino? No, io penso che la cacciata di Ignazio Marino resti un'ignominia della politica proprio, perché lui era un sindaco eletto dai cittadini, non diciamo esente da critiche, ma sì, ma come tutti, ma non come c'era tutti. Proprio ragione di trattarlo come è stato trattato, è stata penso la fine del PD romano per un po', vabbè. Il PD romano insomma poi ne ha pagato le conseguenze, insomma, aveva una strategia lucidissima, esatto, per cacciare Marino. Va bene, vuoi parlare male di Renzi, te lo sento. No, lo già sento. L'ho fatto. Già l'hai fatto, sì, no, ma di più. Vuoi parlare male Renzi, no, ma di più. Vabbè, ma non fare così. No, però io devo dire una cosa. Devo dire una cosa. Ecco appunto la domanda, devo dire una cosa. Non sta un pochino esagerando Michele Emiliano, che tra un po' imputa Renzi la sconfitta del Milan di ieri, il sesto campionato della Juve, colpa di Renzi. Tutto, cioè, non lo so, ma Emiliano ha detto qualunque cosa tocca sfascia tutto, disastro Renzi, vabbè, abbiamo capito che vuole andare a quel posto lì, però è chiara qui, vabbè, purtroppo le critiche di Emiliano forse non sono così espresse con un linguaggio moderato, ma non mi sembra che siano così campate per aria o infondate. Come al solito la tifoseria renziana reagisce alle critiche, come ha fatto ieri con Emiliano, dicendo che la critica è invidioso, rancoroso, rosicone, insomma, ieri sembrava a un certo punto di essere ancora in piena epoca renziana quella trionfale. Sì. E invece bisogna un po' entrare anche nell'ordine di idee, che il PD farà un, prima o poi un congresso, e ci sarà libertà di criticare Renzi e di proporre alternative. Questo non è rancore o livore o qualcosa. E poi il migliore vincerà o quello che ha più voti vincerà. E va bene, insomma. Purtroppo dopo 4 anni è anche, diciamo, ci sono motivi per avere dei giudizi negativi. Magari si candida anche Chiara Geloni, chi lo sa? Magari si candida. Ne dubito. Non so, Barione, sta esagerando Emiliano? Adesso non è che ce la vogliamo prendere con Emiliano, ma una dialettica interna ai partiti è classica, e quella interna al PD è tipica, insomma, per cui non vedo nulla di nuovo rispetto a altre stagioni del Partito Democratico, quando ci si avvicinano gli appuntamenti importanti, che per il PD sono sempre due: congresso e liste elettorali. Sì. Quindi quando si arriva in quella situazione lì, comincia a alzarsi la temperatura, perché tendenzialmente molti rischiano il posto. Le liste elettorali precedenti sono state fatte da Bersani, e quindi l'infornata precedente è piena di persone che in questo momento ballano. Riparte dunque il giro di gioco, insomma, tutto abbastanza già visto, c'è, cioè, chi deve tutelarsi, chi deve garantirsi, chi deve farsi rileggere, insomma, una logica molto nota, diciamo, della temperatura. Comunque Bersani ha fatto le primarie per scegliere i parlamentari. Eccolo lì. Qualcuno l'ha fatto, qualcuno no. Il 31 dicembre le primarie di Roma, sì, con i voti di Puzzi, adesso io non stiamo parlando di Roma, no? Stiamo parlando a livello nazionale. Nazionali, 30 e 31 dicembre. Se si dimise Monti non è che la data la poteva scegliere. Vabbè, a Capodanno, comunque, insomma, le primarie a Capodanno. Votò il 25 febbraio, se ricordi bene, quindi i tempi erano un po' stretti. Si votò d'inverno. Monti si dimise l'8 dicembre, quindi i tempi erano, le sa tutte le date, le sa tutte, non la freghi. L'epoca del PD di Bersani non se l'è dimenticata la Chiaretta. Allora andiamo al traffico, poi vogliamo parlare un pochino anche di Trump. Caro Adinolfi, dobbiamo parlare un attimo anche del Cardinal Sepe. Ti risulta qualcosa il Cardinal? Madonna, che ci ha fatto il Cardinal Sepe, insomma, che ha combinato? Ma non lo so, è accusato di avere coperto un prete pedofilo. Così novità. Per me è una novità. Non lo so, per te no, forse per me è una novità. Ma oggi c'è una pagina su Repubblica. Cosa devo fare? C'è una pagina su Repubblica, tra poco, vabbè. L'unica cosa che è bella di questa trasmissione è il traffico, mandalo, vai. Milan, hai rotto le palle, te la raggi. Ma scusate, sta Raggi prima è tranquillo e poi è sconvolto. Ma è sconvolto, è tranquillo. Che se pigli per culo a tutte le romane. Falsa. Alino, non potete negarlo, siete antigrillini, ma tutti, è evidente. Ciao. Berlusconi ha preso 200 milioni di voti. Quando avevo 15 anni nel Milan giocavano Baresi e Van Basten e vincevamo le coppe dei campioni. Nel Milan non ci sono più Baresi e Van Basten, perché il tempo passa per tutti e bisogna guardare avanti e non guardare quindi indietro. Berlusconi... Che triste verità, Salvini. Lo so, adesso abbiamo la Padula. Cazzo, la Padula. E la gente applaude quando vede la Padula, perché corre, volevate uno che corre, eccolo qua, la Padula, Van Basten, Marione, Van Basten, l'altro giorno è venuto qui Gullit a Radio 24, c'era Gullit. C'era Gullit, ho toccato un braccio. Gli ho detto: ciao Gullit, fai un gol domani. Invece non c'è più. Vabbè. Rijkaard avevamo. Vabbè. Pirlo, anche noi avevamo Pirlo, sai. C'è Sosa, è forte Sosa. Sosa. Il Pampa? Pampa Sosa? Sì, quello lì. No, no, è un altro. È un altro, manco il Pappa Sosa. Proprio... Manco quello. Io. Manco quello. Vabbè, scusate, il momento adesso mi ricompongo. Io c'è una donna e ricascio che le frega niente. No, no, no, non è vero, non è vero. Ma mi hanno citato Van Basten e Baresi e Maldini. Capite? Vabbè, dai, allora. Trump, cari amici, oh, Trump ha detto una cosa, ragazzi, ma ce l'abbiamo in audio, perché gli hanno chiesto alla Fox News, gli hanno chiesto di Putin, ma Putin non è un killer, e lui ha detto questa cosa incredibile, ha detto, beh, anche l'America ha avuto dei problemi, per esempio in Iraq abbiamo ucciso tante persone, cioè praticamente ha detto che George W. Bush è come Putin, voi mi dite di Putin e noi guardiamo a George W. Bush, senti qua, Trump. Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. He's a killer, though. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? Ci sono dei killer anche in America, e poi dopo ha parlato della guerra in Iraq, capito Marione? Qui comincia già a piacermi un po' Trump, Trump ha delle, diciamo, elementi di ingenuità comunicativa che sono interessanti. Tipo questo, paragonare non, Bush non a Putin. Fitto, non voglio dire no. Niente, fitto. Però insomma, la sua capacità di essere per certi versi trasparente e di aver detto la verità, attenzione, non è che ha detto una cosa che non c'è, insomma, di dirla con quel tono, spiazza il tono dell'interlocutore, l'interlocutore fa il saputello e lui lo sovrasta completamente con la risposta che dà, insomma, quindi lo mette completamente fuori gioco. Certo. Stare attenti, Trump viene molto sottovalutato, secondo me molto scaltro. Anche perché si dice adesso anche degli amici, come dire, interni all'Unione Europea. Marine Le Pen, una su tutti. Infatti oggi Romano Prodi fa un'intervista tutta preoccupata su Repubblica, dice attenzione, Trump e Marine Le Pen che dice fuori dall'euro, fuori dalla NATO, via dall'Unione Europea. Sono due problemi concreti dall'esterno, se vogliamo, all'Europa, Trump all'interno, Marine Le Pen. Chiara, questo è un nuovo mondo con cui noi qua ci trastulliamo sulle primarie, su Emiliano, su Renzi, ma forse dovremmo guardare a queste cose con uno sguardo un po' più... Da mo, come si dice a Roma, che bisognerebbe preoccuparsi di queste cose. Tra l'altro io non credo affatto che, insomma, condivido quello che ha detto Mario, non avrei usato la parola ingenuità comunicativa, perché non è ingenuità, è una strategia quella di rompere sempre il politicamente corretto che circonda la politica americana anche di fronte ai suoi errori, no? Perché la guerra in Iraq è stata un errore, ma lo sanno anche loro, ma non, un presidente non l'avrebbe mai detto così. E questa nuova politica, se vogliamo chiamarla così, che sta nascendo nel mondo occidentale, non solo in America ma anche in Europa, è la novità, è l'avversario per i democratici, per chi non... Ma certo, ma la prossima campagna elettorale, quando sarà? Nei prossimi anni, sarà decenni. Con l'Europa o contro l'Europa? Europeisti, certo, o mondialisti? Sovranisti, no? Sarà questa poi la sfida? È talmente evidente, in tutte le tornate elettorali avanza questo tipo di proposta, più o meno caratterizzata in Italia... Il Movimento 5 Stelle per certi versi la rappresenta e per certi versi la tiene frenata, questo tipo di proposta populista di destra, perché il Movimento 5 Stelle è molto ambiguo nella collocazione. Dappertutto avanzano queste forze, perfino nella Germania, che ritenevamo impermeabile fino a qualche anno fa. Senti qua però, ho 30 secondi per chiudere. Mariona Di Nolfi, il Cardinal Seppe, eccolo qua, pagina 15 di Repubblica. L'accusa, la denuncia al Papa, che potrebbe istituire una commissione, trattandosi di un cardinale, deciderà lui, coprì gli abusi del prete pedofilo, questa è l'accusa, Allora, io ho letto un attimo la vicenda, è una storia di 28 anni fa, che viene alla luce improvvisamente, che adesso arriva perché non ha una conseguenza giudiziaria, che tutto prescritto, e tutto è. Adesso, ovviamente, c'è la denuncia, il Papa valuterà, Sempre non ha fatto, diciamo, materialmente nulla. Vedremo se ha coperto un fatto di 28 anni fa. Beh, materialmente nulla, se avesse coperto materialmente non è una bella cosa. Cioè, ovviamente non sarebbe una bella cosa, ci sarà una valutazione, però fammi dire che fare la paginata così, non sulla notizia, ma sul fatto che uno ha scritto al Papa, vabbè, sì, perché mi sembra molto lontano l'accertamento della verità. Ecco, vabbè, dai, te la sei cavata. Mi sembra. Viva il Cardinal Sepe, viva il Cardinal. Viva la Chiesa, tutto sommato. No, si può dire ogni tanto, visto che l'atteggiamento sembra solo quello, quello che interessa, anche quelle cose che fa la Chiesa. Viva la Chiesa e viva, viva la Juve, dai. Però voi zero titoli, zero titoli, noi uno per ora. Certo che Van Basten non me lo dice a Gullit. Vabbè, dai, vi devo salutare, Mariona Di Nolfi e Chiara Geloni. Vi ringrazio, una buona settimana ovviamente, ci sentiamo presto. Marino, Marino, Marino, Marino. Ma dai, una l'abbiamo conquistata. Forza Di Nolfi, anche tu. Marino. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Miau. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, sono le 7 e 18 minuti, voi forse non lo sapete, ma la 197esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è già cominciata. E allora è iniziata anche l'ottava settimana decisiva per la riforma elettorale, se è per questo. Devo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti ieri al Teatro Manzoni di Milano per la bellissima serata di Platone, spero vi siate divertiti. E spero sia stata una serata divertente, a giudicare dalle risate che avete fatto pare di sì. Sono contento e siamo contenti, il 26 marzo ci risiamo, 26 marzo, evviva. Allora, questo è lo spazio invece dedicato alla lettura dei giornali, la rassegna stampa di 24 mattino. E allora forza Carmelo Lauricella, che oggi sei in regia perché Peter Biscavè mi sa che ha visto il Super Bowl, è un po' a tardi, è fatto. Dai, avanti. Buongiorno Alessandro e buon lunedì, vai di brutto che oggi si lavora, yuppie! Viva, meno male, lunedì 6 febbraio, il Sole 24 Ore apre sull'anti-evasione, punta sull'IVA, questo è il titolo di prima pagina, sono le misure allo studio per battere una tax gap oltre i 40 miliardi e trovare così le risorse necessarie alla correzione dei conti, sapete che l'Europa chiede conto per l'appunto. La maggior parte dell'apertura dei quotidiani del lunedì è dedicata all'attualità internazionale. Sfida Le Pen, via da Unione Europea e NATO, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, mentre Repubblica, Le Pen, la sfida, io come Trump. Così il Messaggero, sfida Le Pen, via da Euro e NATO, il titolo è lo stesso, identico in pratica del Corriere della Sera. Attualità internazionale anche per la stampa, Libia, parte il dialogo Italia-Russia, c'è un'intervista al ministro degli esteri Alfano, colloqui con Lavrov, segnali positivi. Libero invece ha un'intervista a Michele Emiliano che continua la sua battaglia contro Renzi, Renzi sta con i ricchi, questo è il titolo di prima pagina. Il Giorno invece incella chi truffa gli anziani. Dopo la campagna del Quotidiano Nazionale arriva la legge con pene severe e risarcimenti per chi appunto compie truffe ai danni degli anziani. Il Fatto Quotidiano, indovinate chi in prima pagina, Michele Emiliano, PD, tutto banche e petrolieri. Michele Emiliano liquida la stagione Renzi e vuole un congresso vero. Voglio partire da questa notizia che riguarda gli statali, l'assenteismo, le novità. Spesso si dice novità sperando che siano importanti e che incidano in maniera positiva. Vediamo un po', la stampa dedica due pagine al tema malati immaginari, visite fiscali mirate anche per gli statali. Cosa cambia? Si parla di stretta sui controlli. Le visite, racconta Flavia Amabile, a pagina 10 saranno affidate all'INPS come nel privato.